Yo. Okay. Baby gang. È la strada che parla. In Italia sono tutti uguali, o sono tutti amici, o sono tutti rivali, o sono tutti infami, o sono dei criminali. E sono più italiano degli stessi italiani. Stavo con due ergastolani, duplice omicidio giù a Bari. Minorili vanno a fuoco come i satellitari. Questa vita non è un gioco, e se vuoi spararmi, prima esci da San Andreas e poi vieni a bucarmi. Sono passati mesi, sono passati gli anni, non ho mai dimenticato la faccia di quei bastardi. E se pensi di farmi, tira fuori le palle, che in questa guerra come non ti bastano le armi. È inutile che parli, me la puoi solo succare. Nuova generazione che pisce in culo ai più grandi. Nuova generazione da poveri a milionari. Nuova generazione, ci abbiamo messo 2 anni. Non ho 1 milione in banca, ma 1 milione in tasca. Ho un caricatore pieno, entro alla Valanzasca. Sono italiano e arabo, mafia Cusco spasta. Ho promesso a mamma che faccio solo i flussi e basta. Perché la piazza non ti comprerà una casa. Soldi sporchi vanno via più veloci di chi brasa. Cocaina in bottiglia non ti basta più del naso. Non hai più una famiglia, sei nato solo per caso. Odio i tossici più di quanto gli ipocriti. Stavo sotto i portici, tu dream, muoviti. Ho ancora i bossoli e collo fuori dal Tocqueville. Che ha fatto come il grosso, l'ha pagata grossa, mollami. Suck my dick, bitch, fist the pit. Rich, io sono free e tu modalità. Rip, faccio dalla police list. Mio frat dal Gambia, hardala ashishish. No ashashash, facevo bracash. Avevo in garage i chili, i kalash. Ora nel garage un Lambo è un S-class. Classe A, classe B, sto fuori class. Sto fuori classe, non mi hanno insegnato l'arte. Volevo fare la musica, ma ero messo da parte. Per quello che è la mia unica strada, stare col grande e imparare così grandi per poi diventare un bandi. Bandito, banditi, banditi della city. Ho dentro tutti i miei amici. Sono sempre accavallato anche se non ho nemici. Perché da un momento all'altro questi ti monta la bici. Bitches.